Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dopo la puntata di giovedì scorso di Anno Zero, da persona di centrodestra, anche se non più elettore al momento, propongo che sia affidata alla Banda di Santoro per tutta la settimana la prima serata di Rai 1. Avendo ascoltato il pietoso riassunto di cose lette, rilette e stralette del martire Travaglio, avendo avuto la gioia di riascoltare l'ineffabile vamp direttrice del giornale, fondato da Antonio Gramsci, che ha detto che il polverone sulla escort e il CAV serve per distrarre gli italiani dai veri problemi, e dopo aver rivisto Camomilla Franceschini, ritengo che il programma sia la più efficace arma impropria contro quel che resta dell'opposizione. Angelo. In merito alla sentenza del TAR sulla giunta di Taranto, azzerata perché non c'è nessuna donna tra gli assessori, io ho letto questo. La giunta provinciale di Taranto è stata annullata perché non rispetta le quote rosa, così come dispone il regolamento dell'ente. Ora, dato che c'è una giunta che ha fatto una legge sulle quote rosa e poi non la rispetta, il TAR ha solo imposto che venisse rispettato un regolamento che loro stessi si erano dati e quindi perché prendersela con i giudici? Che cambino la legge se dà loro tanto fastidio, no? Sara. Quella del TAR non è una sentenza, ma un'ordinanza cautelare. Ciò vuol dire che il giudice, l'avversato TAR, ha deciso provvisoriamente fondando il proprio convincimento sul cosiddetto fumus boni iuris, e cioè sulla ragionevole fondatezza del ricorso. La decisione, ovvero la sentenza, arriverà più avanti. Alberto. L'affirmative action voluto dalla Casa Bianca per dare agli studenti di colore le stesse possibilità di quelli bianchi sta dimostrando di essere una politica sbagliata e oltretutto non risolve la stortura che vorrebbe correggere. Non riesco quindi a capire la decisione del TAR che boccia la giunta di Taranto per mancanza di donne. Sono fermamente convinto della situazione discriminatoria patita dalle donne italiane, anche fuori dalla politica purtroppo. Ma non è con le quote rosa, una sorta di affirmative action de noantri, che si può pensare di guarire il male. Il problema è a monte nella selezione all'interno delle sezioni dei partiti. Una casa con fondamenta deboli non si sistema imponendo un tetto di un materiale invece di un altro. Imporre un minimo di donne in una giunta rischia di essere una delle tantissime misure temporanee adottate in questo paese, che poi si perpetuano generando più storture di quelle che, anche nobilmente, sarei inteso aggiustare. E chi lo dice che un numero minimo di persone imposte garantiscano qualità? La cosa seria sarebbe modificare statuti e, soprattutto, mentalità dei partiti, in modo che emergano solo le personalità di spicco, donne o uomini. Dovrebbe essere un dettaglio assolutamente irrilevante. Roberto. E se nella giunta di Taranto non ci fossero donne all'altezza dell'incarico? Bisogna nominarle ugualmente in nome di quale diritto? Essere femmina è forse un merito o una qualità? Tutte le signore che pretendono di avere consenso sono le prime a considerare le donne come diverse. Altrimenti non si spiegherebbe il perché dovrebbero essere privilegiate rispetto agli uomini. Ci sono tante di quelle donne in politica oramai, belle, brutte, capaci ed anche parecchie di cui non sentiremmo la mancanza. Non capisco perché, nel momento in cui ci si consideri uguali, non si accetti che a volte vada meglio a qualcun altro. Sarà logico che fra poco anche i gay a questa stregua pretenderanno le loro quote. E sarebbe anche giusto se vogliamo scegliere per il sesso e non per le capacità. Che valore avranno le nomine non conquistate ma dovute, come le tasse da pagare? Giulia. Scrivo a proposito del presunto attacco alla libertà di stampa di cui si parla da qualche settimana. Secondo me non c'è alcun attacco alla libertà di stampa, perché non c'è alcuna libertà di stampa. Mi spiego. Il fatto che tutti i giornalisti possano scrivere e dire tutto quello che pare a loro, compreso il fatto di vivere in un regime che mette in pericolo la libertà di stampa, è di per sé la dimostrazione che non c'è nessun attacco in atto. Se vi fosse libertà di stampa, dovrei trovare articoli sull'Unità che parlano bene del governo, o qualcuno su Il Giornale che è d'accordo con Di Pietro. Ma siccome questo non succede, è evidente che i giornalisti non sono liberi di esprimere altro che la linea editoriale dei direttori, e quindi che i giornalisti liberi probabilmente non trovano lavoro. So benissimo che ci sono giornalisti non allineati che fanno del loro meglio, ma guarda caso, quelli che strillano di più riguardo l'attacco alle libertà di stampa sono quelli che dicono sempre e solo una sola cosa, e i cui commenti vanno in una sola direzione. Nietzsche diceva che la realtà non esiste, esistono solo le opinioni. E il direttore dell'Unità ribadiva il suo diritto alla libertà di opinione in una trasmissione radio di pochi giorni fa. Ma non c'è libertà senza responsabilità, non ci sono diritti senza doveri, non c'è giustizia senza rispetto e non c'è verità senza onestà morale. Se un giorno vedessimo Berlusconi volare via tipo Superman, appena uscito da Montecitorio, il giorno successivo metà dei giornali italiani intitolerebbero «Silvio Santo assunto in cielo» e l'altra metà «Ecco le prove, Berlusconi è un pallone gonfiato». Allora, se tutto ciò che si vuol far passare, sempre e comunque, è la forzatura del proprio credo da una parte o dall'altra, forse di questa stampa libera potremmo farne a meno. Altrimenti, visto che tutti si ergono a difensori dei diritti, ci si erga anche a difensori dei doveri, per i quali informazioni false, mendaci, tendenziose, faziose o di parte, quando provocano un danno, devono ricadere come responsabilità personale di chi le scrive, come succede per chiunque fa un qualsiasi lavoro senza far parte di caste particolarmente protette. Ho trovato molto divertente la bagarre di commenti sul regime che ci governa, dopo la querela all'Unità e la Repubblica. Il nostro Presidente del Consiglio non ha mandato squadracci di picchiatori a dar fuoco ai giornali. Secondo me stiamo entrando in un circolo pericoloso, per cui chiunque entra a far parte di un gruppo più o meno definito scarica le sue colpe personali o addebita le sue questioni private al gruppo di appartenenza. Se fossi gay e qualcuno mi insultasse, il giorno dopo ritroverebbe la sua foto sul giornale con la definizione omofobico nazista. Se io fossi ebreo, diventerebbe antisemita. Se fossi extracomunitario, sarebbe tacciato di xenofobia. Se fossi negro, di razzismo. Se fossi un giornalista, sarebbe un attacco alla libertà di stampa. E se fossi un parlamentare, un inaudito attacco alla democrazia. Continuo a sorprendermi della quasi totale mancanza di analisi obiettiva della realtà da parte della maggior parte della popolazione. Ed anche un po' a preoccuparmi, rimanendo comunque ottimista, per quanto possibile. Daniele. Buongiorno, direttore. Qualche giorno fa, in una lettera inviata al Corriere di Bologna, un deputato del PDL paragonava gli insegnanti e i genitori che portano i bambini a manifestare contro i decreti scuola ai fascisti che facevano sfilare i bambini in fezze e fuciletto. E ha parlato addirittura di pedofilia perché, a parer suo, chi strumentalizza per i propri interessi persone ancora sprovviste di libero arbitrio è vile al pari di chi violenta i minori nel corpo e in tal giusta misura andrebbe punito. Caro direttore, io non voglio entrare nel merito se sia giusto o no manifestare contro la Gelmini, ma non crede anche lei che questa lettera abbia toni troppo pesanti? E non crede anche lei che non abbiano senso affermazioni del genere se fatte da un deputato di un partito che per primo ha riportato i fascisti, anche se modernizzati, in Parlamento e il cui presidente e fondatore non perde occasione per farsi fotografare con figli e nipoti ogni volta che ne sente il bisogno? Per finire poi con il Family Day. Moreno, Bologna. Caro Moreno, i toni pesanti sono ormai purtroppo una cattiva consuetudine del dibattito politico di queste settimane. Toni pesanti anche perché gli attacchi personali hanno preso il posto del dibattito delle idee. Toni pesanti anche perché la politica ha trasformato quello che poteva essere un sano bipolarismo in una battaglia aperta per delegittimare gli avversari. Nello specifico, trovo anch'io poco opportuno che si portino i bambini alle manifestazioni di piazza e li si faccia partecipare alle proteste politiche. Ma risparmiamo i paragoni fuori luogo. Il problema di fondo è che le proteste, giuste o sbagliate che siano, dovrebbero essere una cosa seria. Un corteo di bambini, invece, non può che trasformarsi in una festa. I fanatici del multiculturalismo stanno pubblicizzando una teoria alquanto ardita. La chirurgia plastica sarebbe la risposta occidentale al velo islamico. Di teorie sballate ce ne sono tante, ma questa va piuttosto in là e spiego perché. Non ho ancora sentito di un padre che picchi o ammazzi la figlia perché non vuole farsi un intervento di chirurgia plastica. Casomai sono le giovani insicure che tormentano i genitori per andare sotto i ferri del chirurgo estetico. Mentre sono tanti i casi di famiglie che tormentano le ragazze di origine musulmana che vogliono usufruire di quei diritti che le donne occidentali hanno fatto tanta fatica ad ottenere e che sono sempre a rischio di scomparire, anche per l'insipienza delle donne stesse.